get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera, ben sintonizzate. Eccoci di nuovo qui, ci facciamo ancora una volta reciproca compagnia. Quella che ascolterete tra poco non è, come vi sareste aspettate, la nostra 198esima trasmissione in replica, ma è una trasmissione tutta nuova. Fischia un po', ma garantisco che è tutta nuova. Ed è quindi la 199esima. In studio siamo Rossella e Monica, che sta ancora una volta alle apparecchiature, che la Dea ce la mandi buona, visti gli ultimi esiti. Allora, niente trasmissione vecchia, una nuova trasmissione, e abbiamo voluto intitolare la trasmissione di oggi Il colore viola delle parole. Perché? Beh, perché ci sembrava doveroso, vero Rossella? Certo. Oltre che piacevole celebrare, sì, ancora l'8 marzo appena passato, però non più con quello che abbiamo fatto il 6 marzo scorso, cioè una specie di memoria, no? Di quello che è stato il cammino storico e politico delle donne, ma con un tuffo proprio direttamente nelle parole, nei versi e nelle narrazioni di alcune scrittrici italiane e non, che hanno parlato da donne a donne, raccontandoci appunto il loro essere lesbiche o semplicemente il loro faticoso esistere in un mondo che non le vuole, come sappiamo, non le pensa, non le vede, perché non le rappresenta a sé e agli altri. Ci aspettiamo numerose, come sempre, le vostre considerazioni. Vi ricordiamo che avete la possibilità di intervenire a questa trasmissione attraverso l'invio di un SMS al nostro cellulare, che è 338-4146-682, ovviamente il numero del cellulare. Poi, visto che forse un messaggio potrebbe essere troppo sintetico, vi ricordiamo che come sempre potete scriverci, anzi saremo molto contente se ci scriveste, indirizzando la vostra email a contatti@clrbp.it oppure usando la vecchia carta e la magnifica penna e inviando le vostre proposte, idee e quant'altro a CLR presso Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Inoltre, care compagne, non ci lasciate sole, anzi, se volete tenerci compagnia, mandateci dei trillini telefonando al numero di telefono 06 49 17 50. Benissimo, e adesso subito la prima musica. Iniziamo dolcemente con una musica che ci faccia compagnia, una musica che abbiamo di una, diciamo, cantante esecutrice che abbiamo altre volte messo, portoghese, che si chiama Dulce Ponte. Il titolo è Come Maddalena ed è tratto dal CD Focus. As pedras não são de ninguém em Jerusalém. De cada pedra o dono é o tempo que tem. São pedras sobre pedras, dizem Jerusalém. Falam, falam, mas ninguém ouve bem. E a história recomeça sempre em Jerusalém. E mais as mil histórias que essa história conta. Histórias de amor.

naturalmente quelle che abbiamo sentito erano le Farawalla, questo è canto tradizionale. Vorremmo chiudere con un momento ancora di serietà e di riflessione, anche se è molto bello e molto intenso, però particolarmente forte. Ed è un testo di Brenda Brooks, Considerate le circostanze, che è tratta dall'antologia omonima dedicata appunto agli scritti erotici lesbici. Quando si spremono il cervello per cercare quello che considerano l'aggettivo più terribile, quando ti si avvicinano per strada, quando ti dicono e te lo diranno che sei una lesbica schifosa e una puttana pervertita cui vorrebbero in vari modi spaccare la faccia, quando senza alcuna ironia ti invitano a succhiarglielo, sarà importante ricordare la notte in cui la pioggia entrò dalla finestra e come leccavi le gocce sulla sua spalla e come erano più dolci di un frutto maturo, frutti bagnati, rilucenti nell'erba. O come ti sei svegliata in preda al desiderio, volendo troppo questa donna, come lei poteva farti soffrire nel buio, che fosse lì, oppure no. Cerca di ricordare come le si spezzava la voce quando la toccavi nel modo giusto e come imparare a toccarla nel modo giusto fosse tutto quanto importava. Richiama alla memoria il tuo corpo nudo contro i suoi jeans ruvidi, la sua felpa strappata macchiata di rosso e verde, come afferravi i tuoi polsi mentre ti tendevi venendo. Considerate le circostanze, sarà un'ispirazione ricordare la sua andatura strafottente, messa a punto lungo strade crudeli ed altri corridoi di ridicolo, tutti privi di senso per te ora che non temi più la pioggia che entra dalla finestra, lecca le gocce sulla sua spalla. Terminiamo con l'ultimo intermezzo musicale. E si tratta di Trees, scritto dalla cantante celtica Fiona Joyce e tratto dal CD This Eden. Perception. There lies the secret of your salvation. Behind the curtain of deception, there lies the secret of your salvation. First you create, then you destroy. And you look for somebody else to take the blame. You are the saint, you are the sinner and the beast. You are the chosen few, to hell with all the rest. And the trees bend and whisper. There is a light that shines so bright for you and me, but we see night where only sleeping souls should be. We close our eyes, we close our bodies and our minds. We close the doors of freedom, oh, so many times. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. If I could take your hand, and if you could take mine, we'd walk together right until the end of time. And we could laugh together, walking hand in hand. We could go on forever. of your perception. There lies the secret of your salvation. Behind a curtain of deception, there lies the secret of your salvation. Ah, oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Gli appuntamenti. Allora, cominciamo con un corso, un ciclo di incontri che si chiama Singolari Differenze. Differenze, genere, diversità, luoghi e spazi della molteplicità, che si tiene il giovedì sera presso la Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19, è a cura dell'area cultura della casa e ha una serie di incontri che ora vi dico. Il primo è giovedì 15 marzo alle ore 18:30. Federica Giardini e Rosetta Stella presentano Simone Weil, un'intimità estranea di Angela Putino, pubblicato da Città Aperta nel 2006. Giovedì 22 marzo, ore 21, sempre, abbiamo Ida Domigliani e Emanuela Fraire che presentano La disfatta del genere di Judith Butler Meltemi, 2006. Giovedì, infine, giovedì 28 marzo, alle ore 18:30, questa volta, attenzione che c'è un cambio di ora, questa volta che cosa avremo? Avremo Liana Borghi e Clotilde Barbarulli che presentano Forme della diversità, a cura appunto di Liana Borghi e Clotilde Barbarulli, edito da CUEC nel 2006. Quindi Casa Internazionale delle Donne, Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19, il giovedì. Ancora lunedì 19 marzo alle ore 17, Wendy Poyman, presentazione del libro Immigrant Women and Feminists in Italy, organizza l'associazione Candelaria. E ora arriviamo a martedì 20 marzo, ore 15:30, sempre presso la Casa Internazionale delle Donne, si terrà il convegno per la libertà femminile, per l'indipendenza nazionale donne Sahrawi a congresso nel deserto. Organizza AFFI, Caucus delle Donne, Comitato Romano Genere e Generazioni, Paese delle Donne. Interverrà Patrizia Sentinelli, viceministra per gli affari esteri. Sempre martedì 20 marzo, alle ore 16:30, Mariella Gramaglia, assessora uscente delle pari opportunità del Comune di Roma, presenta il documentario Viaggio nel Novecento delle Donne, una storia politica, di Nella Condorelli, con commento storico di Anna Rossi Doria e Sandro Portelli. Poi abbiamo giovedì 29 marzo alle ore 18, presentazione del libro Una storia tormentata, il desiderio di maternità e paternità nelle coppie sterili, di Paola Binetti. Dibattito tra la senatrice Paola Binetti e la ministra Livia Turco. E ancora, sempre presso la Casa Internazionale delle Donne, giovedì 22 marzo alle ore 15:30. Maternità e lavoro, diritti inconciliabili, organizza la CGIL Roma Sud, sempre via della Lungara 19. Infine, martedì 27 marzo alle ore 9:30, il seminario La storia che non si insegna, cioè la storia delle donne. Ancora una volta organizza la CGIL Roma Sud. Vogliamo segnalarvi la commedia, la pièce teatrale Gesualda, Marianella e O Creaturo, Follia e Metodo al Teatro 2 dal 6 marzo al 1 aprile alle ore 21 di e con Cloris Brosca, Anna Coutieri, Silvia Sant'Agata, Ada Totaro, Ilia Zinno. Ancora, il Trust nel nome della donna bandisce un concorso internazionale di cinema indipendente delle donne abbinato ad un festival itinerante con tema le esperienze di libertà femminile. Il concorso è rivolto alle donne di tutto il pianeta, professioniste, dilettanti, tutto quello che volete, ed è suddiviso in storie, cortometraggio per lavori di durata inferiore a 60 minuti, lungometraggio per i lavori di durata superiore a 60 minuti. Invece nella sezione documenti potete preparare documentari, interviste, video, arte e video ricerche. E chiudiamo a questo punto, chiudiamo con un corso di italiano che è rivolta naturalmente a tutti e a tutti, ma che noi soprattutto diciamo caldeggiamo per quelle donne che non sono di lingua italiana, che hanno bisogno magari di aiuto, di sostegno in questo senso. L'iniziativa è all'interno del progetto Scrivere per vivere meglio, organizzato da Zoner Hurston. Per le iscrizioni si può chiamare il numero 06 68 79 293, il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 16 alle 18, sempre presso la Casa Internazionale delle Donne, visto che l'organizza l'Associazione di Donne Migranti Candelaria. Per le principianti il corso è previsto il giovedì dalle 16 alle 18, per chi è invece più avanzata nella conoscenza della lingua italiana il giovedì dalle 14 alle 16. Infine un corso di storia delle donne, sempre presso la Casa Internazionale delle Donne, che ha già preso l'avvio il 5 febbraio, ma che prosegue fino al 28 maggio, è organizzato da Maria Paola Fiorenzoli, ogni lunedì dalle 18 alle 19.30. E con questo, carissime amiche, Monica e Rossella vi salutano, spero che siate state bene con noi. Ciao, a presto! Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.